Componimento 39° dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Spento il diurno raggio in occidente, e queto il fumo delle ville, e queta dei cani era la voce e della gente, quand'ella, volta all'amorosa meta, si ritrovò nel mezzo ad una landa quanto foss'altra mai vezzosa e lieta. Spandeva il suo chiaror per ogni banda la sorella del sole, e fea d'argento gli arbori ch'a quel loco eran ghirlanda. I ramuscelli ivan cantando al vento, e in un con l'usignuol che sempre piagne fra i tronchi un rivo fea dolce lamento. Limpido il mar da lungi, e le campagne, e le foreste, e tutte ad una le cime si scoprian delle montagne. In queta ombra giacea la valle bruna, e i collicelli intorno rivestia del suo candor la rugiadosa luna. Sola tenea la taciturna via la donna, e il vento che gli odori spande molle passar sul volto si sentia. Se lieta fosse, è van che tu dimande. Piacer prendea da quella vista, e il bene che il cor le prometteva era più grande. Come fuggiste, o belle ore serene! Dilettevol quaggiù null'altro dura, né si ferma giammai se non la spene. Ecco turbar la notte e farsi oscura la sembianza del ciel, che era sì bella, e il piacere in colei farsi paura. Un nugol torbo, padre di procella, sorgea di dietro ai monti, e crescea tanto che più non si scopria luna né stella. Spiegarsi ella il vedea per ogni canto, e salir su per l'aria a poco, e far sovra il suo capo a quella a manto. Veniva il poco lume ognor più fioco, e intanto al bosco si destava il vento, al bosco là del dilettoso loco. E si fea più gagliardo ogni momento, tal che a forza era desto e svolazzava tra le frondi ogni augel per lo spavento. E la nube, crescendo, in giù calava ver la marina sì che l'un suo lembo toccava i monti e l'altro il mar toccava. Già tutto a cieca oscuritade in grembo s'incominciava a udir fremer la pioggia, e il suon cresceva all'appressar del nembo. Dentro le nubi in paurosa foggia guizzavan lampi, e la fean batter gli occhi, e n'era il terren tristo e l'aria roggia. Discior sentia la misera i ginocchi, e già muggiva il tuon simile al metro di torrente che d'alto in giù trabocchi. Talvolta ella ristava, e l'aer tetro guardava sbigottita, e poi correa, sì che i panni e le chiome ivano addietro. E il duro vento col petto rompea, che gocce fredde giù per l'aria nera in sul volto soffiando le spingea, e il tuon venia all'incontro come fera, rugghiando orribilmente e senza posa, e cresceva la pioggia e la bufera. E d'ogni intorno era terribil cosa il volar polve e frondi e rami e sassi, e il suon che immaginar l'alma non osa. Ella dal lampo affaticati e lassi, coprendo gli occhi e stretti i panni al seno, gia pur tra il nembo accelerando i passi, ma nella vista ancor l'era il baleno, ardendo sì ch'al fin dallo spavento fermò l'andare e il cor le venne meno. E si rivolse indietro e in quel momento si spense il lampo e tornò buio l'etra ed acchetossi il tuono e stette il vento. Taceva il tutto ed ella era di pietra. Fine del componimento 39.